Queste riflessioni sono indirizzate a tutti coloro che hanno una fede, che praticano una religione. Esse sono il risultato di conversazioni con testimoni della Torre di Guardia, cattolici romani, musulmani, protestanti, mormoni. Tutti costoro affermano di essere nella fede giusta e di non essere fanatici. Ma come è possibile non essere fanatici quando è la guerra delle religioni, quando chi uccide il prossimo lo fa pensando di rendere un culto alla sua divinità? Assistiamo ad episodi che sconcertano, comportamenti che non possono essere chiamati con un termine diverso da fanatico testamento ISMO. Qual è la differenza tra fede e fanatismo? La fede è l'adesione ad una testimonianza, mentre il fanatismo, come lo definisce il vocabolario, è una espressione esagerata del pensiero religioso portato dalla convinzione di essere nel vero fino all'intolleranza più dura. Il fanatico è invaso da una idea non solo nel campo religioso ma anche profano, e l'agire in conformità e a favore di essa sia pure inconsultamente, senza il debito riguardo né a sé né agli altri, giungendo talvolta sino alla vera e propria mania. E è una persona invasa da grande entusiasmo per la propria fede e intollerante verso ogni altra religione. Da queste due definizioni possiamo riconoscere quale fanatismo e non fede, il pensare di essere l'unico nel giusto, l'essere intolleranti verso le altre espressioni di fede e intransigenti verso i propri seguaci, la mancanza d'accettazione di critiche, il perseguitare chi esprime opinioni negative sul nostro conto, dichiarare guerra a motivo della propria fede, l'imporsi come guida, senza rispettare la persona umana. Consideriamo ogni aspetto in modo più dettagliato. A. Si è fanatici quando si pensa di essere gli unici a professare il giusto. Questo è forse l'errore di fondo. Tutti coloro che hanno fede sono convinti di fare la volontà di Dio. Ognuno l'adempie secondo la propria cultura e maturità. Questo ha prodotto varie confessioni di fede. Un giorno venne a casa mia un testimone della Torre di Guardia dicendo che era un cristiano perché credeva in Cristo. Dopo una lunga conversazione mi invitò ad entrare nella sua organizzazione per poter far parte del regno. Risposi: "Sa perché sono uscito dal cattolicesimo romano? Per la stessa ragione per la quale non desidero appartenere alla vostra organizzazione. I cattolici affermano per essere salvati bisogna far parte della Chiesa Cattolica Romana, voi affermate che bisogna diventare un testimone della Torre di Guardia. A me risulta che l'Evangelo sia a disposizione di tutti e chiunque crede in esso sia salvato. Non occorre appartenere ad una organizzazione religiosa per essere salvati, voi siete dei fanatici, non dei cristiani. Poiché Gesù non ha mai detto che la salvezza si trovi in una religione, poiché nessuna religione salva e può salvare, risulta evidente che la salvezza è estesa a chiunque. Avere un altro messaggio equivale ad essere fanatici. Anche il cristiano, benché debba essere convinto delle proprie idee, deve comprendere che non ha il monopolio della verità, anche se non deve cadere, tuttavia, preda del relativismo, perché la verità è una persona, Gesù Cristo. Il cristiano segue la verità, ma non la possiede. B. Si è fanatici quando si è intolleranti verso le altre religioni. In questo mondo C è spazio per tutti, anche per chi ha una fede diversa dalla nostra. Se siamo tolleranti verso chi la pensa diversamente nel campo politico, se non ci scagliamo contro chi tifa per una squadra diversa dalla nostra, non vedo perché si debba essere intolleranti nel campo religioso. Eppure, spesso, le persone che professano una fede e sono alla guida del gruppo religioso sono implacabili, e questa intolleranza viene espressa in vari modi. A volte, nel divieto ai loro adepti di informarsi e quindi di conoscere altre religioni, quando ero giovane, i sacerdoti cattolici romani proibivano di leggere la Bibbia ai laici. Oggi, i cattolici la leggono in gruppo con la sovrintendenza del sacerdote. Sembra che ci sia stato un cambiamento in favore della verità, ma in definitiva sono due modi per impedire di conoscere la parola di Dio. Il primo, quello di proibire di leggere la Bibbia, era un modo diretto per non far conoscere ciò che realmente dice Dio. Con il secondo metodo, il cattolico può leggere la parola di Dio, ma non ha il diritto di interpretarla fuori dal pensiero cattolico. La presenza del sacerdote ha la funzione di controllare, più che di illuminare. I musulmani di oggi hanno un atteggiamento simile al cattolicesimo. Non sono liberi di interpretare la Bibbia in modo diverso dall'impero della scuola cranica. Un altro modo di essere intolleranti verso le altre religioni sta nel divieto di informarsi o assistere a culti di altre confessioni. Quando ero giovane, i sacerdoti proibivano ai loro fedeli di assistere a culti diversi dai cattolici. Nessun cattolico avrebbe potuto entrare in una sala evangelica, perché poteva anche esserci la pena della scomunica. C. Si è fanatici quando si è intransigenti verso i propri seguaci. La vita comunitaria di chi condivide una fede dovrebbe essere una delle esperienze più belle. Dal momento che il legame non è forzato, almeno così dovrebbe essere, esprimere la propria fede in piena libertà è un'esperienza che dovrebbe essere alla portata di ognuno. Eppure il fanatismo impedisce di realizzare questo obiettivo e, a volte, viene espresso in vari modi. Generalmente, si inizia con la persecuzione. Se una persona non si adegua al volere del gruppo, viene stressata psicologicamente con l'accusa di essere individualista. Poi con l'espulsione. Chi non si adegua al gruppo viene rifiutato dalla comunità e viene espulso dalla stessa con la separazione dagli altri membri. I membri del gruppo vengono caldamente invitati ad evitare la persona che non si conforma. D. Si è fanatici quando non si accettano critiche. Nessuno di noi è perfetto e quindi capita di essere soggetti a critiche o a riprensioni. Chi non accetta la riprensione, oltre ad essere uno stupido, come afferma la Scrittura, lo fa perché crede di essere sempre e, lui solo, nel giusto. Questo atteggiamento suscita dittatori e dittature a tutti i livelli. Eppure, se vogliamo conoscere il vero volto di una persona, dobbiamo sempre osservarla quando si trova sotto i riflettori del giudizio altrui. Tutti siamo bravi e santi quando le cose scorrono lisce, ma pochi escono vittoriosi dalle critiche. Il fanatico non impiega molto tempo a dimostrare il suo spirito intollerante. Nella parola di Dio leggiamo che l'apostolo Pietro fu ripreso dall'apostolo Paolo per un comportamento sbagliato, ma non serbò nessun rancore verso di lui. Anzi, quando si riferì a lui, in una lettera, lo definì il nostro caro fratello Paolo, e si è fanatici quando si perseguita chi esprime opinioni negative. Tutti hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni, di ritenere certe idee vere, altre false. La libertà di espressione è patrimonio di ogni paese democratico, ma dove impera il fanatismo, non si tollerano coloro che hanno il coraggio di disapprovare metodi e argomentazioni per loro sbagliati. Così, in modo violento o democratico, il dissidente viene perseguitato fino alla sua espulsione diretta, o da lui decisa. Molto bella la riflessione di Mill in Essays on Liberty, che trovo assai opportuna. Se tutta l'umanità fosse dello stesso parere e una sola persona fosse di parere contrario, l'umanità non potrebbe essere giustificata se mettesse a tacere quella persona più della persona stessa, se, avendone la possibilità, mettesse a tacere tutta l'umanità. La saggezza che viene dall'alto, quella che scaturisce dalla fede, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Giacomo 3 e 17. F. Si è fanatici quando si fa guerra a motivo della propria fede. Fare guerra ad un altro popolo non è certo una novità e le motivazioni possono essere diverse. Ma quando la motivazione principale o unica scaturisce da un principio di fede, ciò che invochiamo non è più fede, ma fanatismo. Gesù disse: «Vi espelleranno dalle sinagoghe». Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Giovanni 16, 2 a 3. Da sempre, per fede, Gli uomini hanno pensato di fare cosa gradita a Dio uccidendo chi la pensava in modo diverso, nonostante Gesù abbia ordinato di proclamare l'Evangelo, non di imporlo con la forza. Se proprio si vuole essere larghi di vedute, è anche comprensibile chi porta avanti una guerra santa, perché le ragioni di tale comportamento sono prese da una fonte sbagliata, ma è sconcertante constatare che la Santa Inquisizione fu giustificata sulla base della parola di Dio, quando sia Gesù che i suoi veri discepoli scelsero di subire la persecuzione anziché opporsi combattendo. Come disse qualcuno, una volta c'era le sale di tortura, oggi le sale di tortura sono diventate psicologiche. Il cattolicesimo, con le molteplici regole, è diventato la religione più punitiva mai conosciuta dall'uomo. Per sapere se si fa parte di una organizzazione fanatica, è sufficiente considerare come sono trattati coloro che abiurano la fede. Nell'ambito dell'ebraismo, chi accetta Cristo quale Messia viene escluso totalmente dalla famiglia. Perde ogni eredità. Nell'ambito dell'Islam, se un musulmano diventa cristiano, è la pena di morte. È vero che all'opinione pubblica non si dicono esattamente le cose come stanno, ma in pratica le cose sono così. Sono andato ad una riunione dove alcuni esponenti islamici hanno spiegato la loro fede. Chiesi come mai se un musulmano diventa cristiano viene perseguitato. L'imam mi rispose che l'abbandono della fede è una offesa grave ai genitori, perciò è giusto ritorcersi contro il figlio, fino alla morte. Gli feci notare che se un cattolico diventa musulmano, i suoi genitori non lo perseguitano, ma soprattutto non lo mettono a morte, eppure anch'essi amano il loro figlio. L'esponente musulmano rispose che la loro religione è giusta, e perciò è giusto ciò che fanno. Chi è estremista non può che appellarsi a questo. Gianzi, si è fanatici quando ci si impone come guida. Ognuno è libero di scegliere la propria religione, ma quando i capi religiosi impongono le proprie vedute, siamo in presenza del fanatismo. Tempo fa, un esponente religioso orientale condannò a morte uno scrittore indiano perché aveva espresso critiche all'islamismo in un suo libro. Nessuno ha il diritto di disciplinare chi appartiene ad un'altra fede o interferire in questioni relative ad altre religioni. Può non approvare altre fedi, ma non può volere imporre la propria a queste. Solo chi pensa di avere le stesse opinioni di Dio può comportarsi così. Purtroppo, quando la sete di dominio diventa passione illecita, è molto facile giustificarla con il pretesto dello zelo per la salvezza altrui e della verità. Si è fanatici quando non si rispetta la persona umana. Ognuno ha il diritto di scegliersi la religione che più gli aggrada, ma quando una religione impone regole che vanno contro il bene della persona, allora la fede si trasforma in fanatismo. Il sabato, cioè le leggi di Dio, sono state fatte per l'uomo, per il suo bene, e non viceversa. Sta scritto: l'uomo buono fa del bene a se stesso, ma il crudele tortura la sua propria carne. Proverbi 11 e 17. Una fede sana detta regole che sono di giovamento alla salute delle persone. Se una religione propugna regole che minano il benessere fisico, è da ritenersi una setta. Non dimentichiamoci di quella setta del Nord America che si estinse con un suicidio collettivo dei suoi membri, fra cui donne e bambini. Ecco come è il fanatismo. Chi si trova in un gruppo religioso che ha queste caratteristiche negative, non indulga a separarsene, perché prima o poi andrà incontro a sofferenze inutili e sgradevoli. Sarebbe bene che la separazione avvenisse senza che si lancino anatemi o si serbassero nel cuore rancori e amarezze, ma purtroppo chi lascia una organizzazione con la quale ha fatto un certo percorso spirituale non prende una decisione se non costretto da circostanze gravi, e a quel punto ne esce con degli inevitabili improperi. Chi si rende conto di appartenere ad una organizzazione dove viene violato il sacro principio della libertà, preso atto della situazione, senza fare del proselitismo, si sceglie un altro gruppo o chiesa che rispetti innanzitutto la libertà personale. Come cristiano mi pongo alcune domande. Come posso sapere se io sono un credente o un fanatico? Come individuare un gruppo religioso che pratica i principi sani? com è una fede non fanatica? Come spesso succede, simili domande non hanno una risposta facile, ma per rispondere possiamo prendere come linea di principio un episodio che troviamo nel Vangelo di Luca. Allora Giovanni disse: «Maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi». Ma Gesù gli disse: «Non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi». Poi, mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali, partiti, entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: «Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi?» Ma egli si voltò verso di loro e gli sgridò, e disse: «Voi non sapete di quale spirito siete animati, poiché il Figlio dell'uomo è venuto, non per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle». E se ne andarono in un altro villaggio. Luca 9, 49-54. I figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, erano uomini di fede, zelanti, amavano Gesù e l'opera di Dio, ma con uno spirito non del tutto cristiano. Amavano svisceratamente il loro maestro, ma il loro amore era fazioso, al punto che vietavano a chi non apparteneva al loro gruppo di seguire Gesù. Erano talmente sicuri di sé che chiesero di poter impedire a chi non era dei loro di fare dei miracoli, chiesero di sterminare col fuoco chi si opponeva loro, solo perché altri credenti non li seguivano, ritenevano lecito usare la forza, la violenza, provocare la morte nei loro confronti. Ma Gesù rimproverò la loro richiesta settaria, anche se apparentemente motivata dalle migliori intenzioni. In effetti essi non sapevano da quale spirito fossero sospinti, per cui Gesù rispose: «Non glielo proibite». Questo ordine dovrebbe essere ricordato alla pari degli altri comandamenti. Dopo la resurrezione di Gesù, i discepoli predicarono la divinità del loro maestro, ma i capi sacerdoti erano fortemente infuriati e deliberarono di ucciderli. Ma un certo fariseo di nome Gamaliele, un dottore della legge onorato da tutto il popolo, si alzò in piedi nel Sinedrio e comandò di far uscire un momento gli apostoli. Poi disse a quelli del Sinedrio: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini, poiché un po' di tempo fa sorse Teuda, che diceva di essere qualcuno. Accanto a lui si raccolsero circa 400 uomini, ma egli fu ucciso, e tutti coloro che l'avevano seguito furono dispersi. Dopo di lui, al tempo del censimento, sorse Giuda il Galileo, che trascinò dietro a sé molta gente. Anch'egli perì, e tutti coloro che lo seguirono furono dispersi. Ora dunque io vi dico: state alla larga da questi uomini e lasciatevi stare, perché se questo progetto o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta, ma se è da Dio, voi non la potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso». Ed essi gli diedero ascolto. E, chiamati gli apostoli, li batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù, poi li lasciarono andare. Così essi si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Atti 5, 34-41. L'intervento di Gamaliele è stato di una razionalità disarmante. L'uomo che avrebbe in seguito messo Gesù nel suo sepolcro invita il Sinedrio a non fare giustizia con le proprie mani, perché se i capi sacerdoti stavano interpretando la situazione in modo sbagliato, come infatti era, si sarebbero trovati a combattere contro la volontà di Dio. La scrittura ci dice che il Sinedrio gli diede ascolto, ma evidentemente solo in parte, perché erano stati disarmati da un ragionamento ineccepibile, perciò picchiarono gli apostoli come dei colpevoli. Il loro settarismo era stato più forte di una logica disarmante. Anche oggi, dei figli di Dio si comportano da settari, nonostante Gesù abbia ordinato di lasciare stare coloro che la pensano diversamente. Per quello che loro chiamano amore e per amore della verità, adottano comportamenti che non onorano né l'amore di Dio né la verità. Coloro che affermano di seguire Gesù sono chiamati ad evangelizzare, non a far guerra o perseguitare chi esprime la propria fede in modo diverso. Questo mandato, calato nella realtà del cristianesimo, è una perla per la comunione fraterna. Chiunque esprime una fede in Cristo è chiamato a considerare gli altri come dei fratelli, come degli amici, fino a che questi non fanno opposizione. Gesù lo espresse molto bene in una sola frase: chi non è contro di noi è per noi, Marco 10:20. Cioè, chi non vi ostacola sappiate che vi sta aiutando. Dobbiamo pertanto accettare le varie diversità di fede cristiana quale fatto della libertà, donataci da Cristo, e pregarlo affinché la nostra fede non si trasformi in fanatismo. Ricordiamoci che il fondamento di Dio poggia su due pilastri. Se da una parte è scritto che si ritragga dall'iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore, dall'altra sta scritto che il Signore conosce quelli che sono suoi. Solo Dio conosce coloro che gli appartengono, perciò dobbiamo lasciare a Lui il giudizio finale e tenere costantemente presente che ognuno di noi renderà conto di se stesso davanti a Dio. L'ordine di Paolo è più che mai opportuno. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Romani 14:13. Proprio perché vi deve essere questo spirito benigno, cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Romani 14:19. Perché il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Romani 14:17. I figli di Dio hanno un solo nemico, il diavolo. Dobbiamo aggiungere che se il Vangelo del cristiano non è coatto, non significa che il suo messaggio sia relativo. Esso è, e rimane, un messaggio non negoziabile. Il cristiano ha un messaggio che ha la pretesa di essere unico, perché nessun'altra religione in tutto il mondo può vantarsi di un fondatore morto e poi risorto, ma questo non deve indurlo ed essere estremista nel modo di agire. Egli è solo un portatore di una notizia, non un giustiziere. Com'è possibile allora predicare un messaggio intollerante e praticare la tolleranza nei confronti di altre fedi, tenendo presente almeno tre aspetti? 1. Il cristianesimo rispetta la dignità data da Dio ad ogni individuo. La Scrittura non permette strategie di intimidazione o di manipolazione. Sono corrette l'argomentazione coraggiosa e l'affermazione franca e chiaramente espressa, ma non la coercizione. Atti 4:14, 2 Corinzi 4:2. 2. Nel regno di Dio non si può mai usare la forza, perché questo regno non è di questo mondo. La verità cristiana è una verità crocifissa e non conduce ad uno spirito di crociata. Si rivolge sempre a uomini e donne che debbono poter rispondere in piena libertà. 3. Il cristianesimo non giudica falsa ogni asserzione di ogni altra religione, né la ritiene completamente vana e senza valore. Spesso l'errore non fa altro che mettere in evidenza la verità. Se esiste il falso, è perché esiste il vero. Così, le varie religioni, sia nelle affermazioni giuste, sia in quelle sbagliate, non fanno altro che confermare la veracità della parola di Dio. L'arma migliore contro le religioni è un saldo credo cristiano intorno alle dottrine principali. La mia preghiera è che tutti, principalmente il Figlio di Dio, in qualunque posto si trovi, di qualunque società faccia parte, possa onorare la sua fede in Cristo, scevra del settarismo. Come è scritto nel profeta Isaia, «Beati voi che seminate in riva a tutte le acque, e che lasciate andar libero il piede del bue e dell'asino». Isaia 32:20. Seminiamo dunque l'eterno Vangelo nel cuore degli uomini, ma lasciando a Dio l'opera di convincimento. Agosto 1999. Ellero.